Ventottesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione de pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, ventottesimo canto. Chi poria mai, pur con parole sciolte, dicer del sangue e delle piaghe a pieno ch'io ora vidi per narrar più volte? Ogni lingua per certo verria meno per lo nostro sermone e per la mente c'hanno a tanto comprender poco seno. S'el saunasse ancor tutta la gente che già in su la fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente per li troiani e per la lunga guerra che dell'anella fe sì alte spoglie, come Livio scrive che non erra, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare a Ruberto Guiscardo, e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, là dove fu bugiardo ciascun pugliese, e là da Tagliacozzo, dove s'anz'arme vinse il vecchio Alardo, e qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, dai quar sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. Già veggia per mezzul perdere o lulla, com'io vidi un, così non si pertugia, rotto dal mento in fin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia, la corata pareva e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'aperse il petto, dicendo: or vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto. Dinanzi a me sen va piangendo Alì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma, fuor vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che n'accisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma, quando avem volta la dolente strada. Però che le ferite son richiuse prima ch'altri dinanzi li rivada. Ma tu chi sei che in su lo scoglio muse, forse per indugiar dire alla pena ch'è giudicata in su le tue accuse? Né morte il giunse ancor, né colpa almena, rispose il mio maestro, a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena a me che morto son, convien menarlo per lo inferno qua giù di giro in giro, e quest'è ver così com'io ti parlo. Più fuor di cento che, quando l'udiro, s'arrestaron nel fosso a riguardarmi per maraviglia, obliando il martiro. Or di a fra Dolcin dunque che s'armi, tu che forse vedrà il sole in breve, s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, sì di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al noarese, ch'altrimenti a quest'ar non saria leve. Poi che l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse esta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Un altro, che forata avea la gola e tronco il naso in fin sotto le ciglia, e non avea mai c'una orecchia sola, ristato a riguardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia, e disse: o tu, cui colpa non condanna, e cui io vidi su in la terra latina, se troppa somiglianza non m'inganna, rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a vederlo dolce piano, che da Vercelli a Marcabò diclina, e fa saper ai due miglior da Fano, a Messer Guido e anco ad Angiolello, che,